con l'emozione di vedere questo popolo, questa l'emozione, che dopo tanti anni ha potuto liberamente esprimere il suo pensiero. Questo non succedeva anche perché, sai, che le elezioni presidenziali che si sono stati in questi anni sono sempre stati nel marco della Costituzione di Pinochet, quindi con poco gioco democratico, diciamo, con poco gioco politico. Infatti, anche avendo maggioranze nel Parlamento, non hanno voluto tante volte modificare questa Costituzione. Quindi questo referendum è stato frutto di una durissima lotta, come abbiamo visto nei mesi precedenti. Ecco, ricordiamo che Pinochet, per i più giovani, è stato il golpista macellaio che nel 73 ha rovesciato il regime legittimo di Salvador Allende, avanzato molto nel livello sociale, per riportare invece con Pinochet a un livello di barbarie, con tanto di torture, desaparecidos e esiliati, come sei stato tu. Ma cosa c'era in particolare nella questione pinochetiana di orribile? Di orribile c'era una specie di sussidiarietà. Loro delegavano, era una costituzione vuota dal punto di vista sociale, politico, economico, perché tutto lo delegava dopo in leggi. Infatti la costituzione dice, per esempio, dice la salute per tutti i cileni, però dopo nella pratica le leggi che reggono la salute in Cile sono tutte private. Quale per l'educazione? Permetteva, allora, e poi modificare queste leggi era difficilissimo perché loro avevano messo la clausola dei famosi tre terzi. Di maggioranze più che qualificate. Infatti, maggioranza qualificata. Infatti, quando la sinistra, per así dire, o il campo progressista metteva in discussione la legge sulla salute o la legge sul problema della pensione, queste qua, non riuscivano mai a avere una maggioranza qualificata. Infatti adesso, nella nuova Costituzione, molti dicono che la maggioranza qualificata sarà per questione di politica internazionale, per questione di sicurezza nazionale, non so, dichiarazione di guerra, queste cose qua, per la salute, la pensione, poi dopo tutte le altre cose, le vendite delle nostre risorse naturali sono state fatte tutte così. La destra ha avuto sempre l'argomento di che questo era permesso dalla Costituzione, cioè la Costituzione permette questo, la Costituzione permette quell'altro. Sì, ma abbiamo letto anche la settimana scorsa che in Bolivia è stato rieletto dopo il golpe giudiziario la Evonomics, cioè si è tornata Evo Morales con il suo ministro allora dell'economia, e quindi governa in qualche modo una sinistra in Cile questa giornata importante. Cosa c'è? Un vento che torna a soffiare in America Latina, a tuo parere? Nonostante Trump, che speriamo che tra poco tolga le tende. Io penso che il sistema comunque non resiste più, perché è un sistema predatorio, quindi la gente è stanca. In Bolivia ci sono stati, il governo di destra non ha potuto mai governare perché il popolo era sempre in strada. L'arrivo del trionfo del MAS in Bolivia è stato anche lì prodotto di una grandissima lotta, e la destra aveva represso tantissimo. Il governo di Piñera in Cile era un che si distingueva da Pinochet semplicemente perché la matanza non era di massa. Però quando lascia orbi 200 ragazzi e lascia senza vista due o tre, senza occhi, nelle repressioni delle, no, capito? Il problema è che le sofferenze, la stanchezza, e poi dopo, quando la gente non ha più niente, come diceva il nostro vecchio amico, quando ha solo la catena di perdere, viene fuori. C'era un cartello molto bello, che io non me lo dimenticherò mai, che dice: ci hanno tolto tutto, anche la paura. L'ultima domanda, per velocemente, è per muovere quel passo nazista che gestisce il colosso Brasile, come che è Bolsonaro, quanto c'è ancora da camminare? Lì c'è da camminare moltissimo, perché Brasile ha una condizione molto particolare in confronto a Bolivia e Cile. Prima di tutto ha una estensione molto grande, secondo ha una popolazione molto distesa, non solo nelle grandi città, c'è ancora tanta gente dappertutto. Allora, arrivare a tutti, il partito dei lavoratori, il PT di Lula, dovrà fare un lavoro immenso, però io ho fiducia in che questo passo. Poi adesso bisogna vedere il comportamento di una parte della giustizia brasileña, perché questo qui, lui e i suoi figli sono impettegolati fino al collo nel traffico. Lui ha la sua, le chiese protestanti, perché lui lo sa che lui è evangelico, usano questo garlito anche, quindi la situazione è difficile, però il popolo brasileño ha dato prova in passato di rialzarsi.